fare Vivaldi di Federico Maria Sardelli. Capitolo 11. Genova, 12 settembre 1893. Erano le 1 di notte, appena suonate, quando, in vico della neve, il silenzio quasi perfetto fu squarciato da due colpi di pistola, seguiti da urla e da un turbinio di tacchi e suole che scalpitavano per i carruggi. Due ombre correvano come furie tra i vicoli, inseguite da altre due ombre che gridavano inutilmente: «Fermi, siete in arresto!» Le finestre restavano silenziose e buie a quell'improvvisa agitazione, nascondendo chi non aveva fatto neanche in tempo a capire cos'era successo o chi preferiva non esporsi a pericoli, mentre i quattro uomini scomparivano come fulmini per riapparire in altri vicoli oscuri lì accanto. Dopo interminabili minuti di una corsa ormai muta e violenta, gli uomini sbucarono ai quattro canti. Da lì schizzarono in via della Maddalena e qui uno degli inseguiti scivolò su un gradino e cadde. I due inseguitori gli furono subito addosso per immobilizzarlo e quando rialzarono gli occhi l'altro era già scomparso in largo della Meridiana. Uno degli inseguitori riprese la corsa lasciando il compagno a guardia dell'uomo fermato e si diresse verso il palazzo della Meridiana girandovi davanti come un ossesso alla ricerca del fuggiasco che aveva visto schizzare da quelle parti. Salì anche la scalinata che costeggia il palazzo, tornò giù, corse nei dintorni, ma niente, l'uomo era fuggito. Non c'era altro da fare che tornare in via della Maddalena e raggiungere il suo compagno che teneva agguantata almeno metà della preda. Passarono quasi 10 minuti prima che il silenzio perfetto della notte genovese si ricomponesse sopra i palazzi e alle vie. Solo dentro alle sue orecchie c'era un martellare continuo del cuore che pompava velocissimo. Gli pareva che quei tonfi parossistici si sentissero in tutto il vicolo, ma in realtà li sentiva soltanto lui, perché quando si perde sangue, la pressione cala e il cuore compensa affannandosi a spingere in circolo quello che rimane. La spalla gli faceva sempre più male e non ce la faceva più a restare lì appiattito come un geco dentro quell'anfratto, tra le colonne del palazzo. Capì che non sarebbe potuto restare ancora in piedi per molto tempo e decise di trovare un riparo migliore, scivolando sul fianco del grande edificio. Improvvisamente una luce quadrata si proiettò sulla strada da una finestra e dopo pochi istanti si aprì una porta con un gran fracasso. Lui si appiattì al muro ancora di più, ma tanto i due cuochi che stavano portando fuori il bidone dei rifiuti parlavano così animatamente fra loro che non l'avrebbero visto neanche se loro fossero trovato lì davanti alla porta. Fu la decisione di un istante, pericolosa, stupida, avventata, ma la prese. Mentre i due si allontanavano verso l'angolo del palazzo per vuotare il bidone, lui entrò dentro senza capire cosa stesse facendo. Attraversò il cortile, aprì una porta qualunque, scivolò giù per una scala e si accasciò a terra esausto. Non sapeva dove fosse, ma non aveva più nessuna forza per deliberare né pensare. Visi, visi, domino, scostoli, ricitate, quell'ora della notte il marchese Marcello Durazzo, 51enne, primogenito del marchese Giuseppe Maria IV, era insonne come ogni notte e invece di girarsi nel letto senza costrutto aveva preso la sana abitudine di passare le sue nottate in biblioteca a leggere, ordinare e schedare. Mentre era al tavolo posto sotto la grande finestra che dava sul cortile, gli parve di vedere sul lato opposto un'ombra schizzare veloce e infilarsi nella porta della cantina. Poteva essere uno di quei lampi che gli occhi producono quando passano da un ambiente illuminato al buio. No, a rifletterci meglio, era certo di aver intravisto una figura umana. Sì, poteva essere uno dei cuochi che a quell'ora stavano ancora lavorando a ripulire e a mettere in ordine dopo quella cena gigantesca che ancora gli si presentava alla gola. Ma no, che motivo avrebbe avuto un cuoco o un servo di correre a quell'ora così furiosamente come quell'ombra che aveva visto? Un ladro, forse? Sì, ma che senso ha un ladro che corre verso la cantina? Avesse preso lo scalone che porta al piano nobile, con gli argenti, i quadri, i gioielli, ma poteva aver senso rubare un po' di vino? Non c'era altro da fare che andare a vedere. La faccenda lo sgomentava e lo attraeva allo stesso momento. Si fermò in cucina a prendere un lume a petrolio, salutò i due cuochi che stavano andandosene a dormire senza dir loro nulla e uscì nel cortile con la scusa di una boccata d'aria. Perché non gli aveva detto nulla di quell'ombra? Perché non aveva chiesto il loro aiuto? Se era un ladro sarebbe stato assai imprudente trovarcisi a quattro occhi. Sì, ma se poi l'ombra si fosse rivelata solo una sua fantasia, sai che figura davanti ai servi? Ormai era fatta, avanti verso la porta della cantina, da solo. Appena entrato con il lume che schiariva tutto, si accorse che le piastrelle di cotto erano macchiate qua e là. Si chinò e vide che era sangue fresco. Le macchie arrivavano fino all'inizio della scala e qui diventavano scure e quasi viola, a contrasto con la pietra grigia. Si guardò all'indietro rimpiangendo di non aver chiamato i servi in soccorso, ma ormai aveva deciso e andò avanti, con il coraggio, la curiosità e l'attrazione che si erano completamente consumati e trasformati in paura. L'uomo intanto aveva riaperto gli occhi al chiarore tremorante che veniva da sopra la scala e il tamburo del cuore aveva ripreso improvvisamente a percuotergli gli orecchi con forza. Il marchese scese tutti gli scalini con le ginocchia che non riuscivano più a stare dritte e il lume che gli tremava in mano, sempre più pentito di non aver detto nulla ai servi. Quando fu giù, in mezzo alla grande volta a crociera che correva alta e buia, anche il suo cuore iniziò improvvisamente a martellare con furia. «Chi siete? Che ci fate qua giù?» L'uomo se ne stava quasi ai suoi piedi, proprio in fondo alla scala, riverso in terra, con il capo appoggiato su uno scalino di pietra, fra una botte e una fila di animali selvatici appesi là a sgocciolare. Aveva la camicia slacciata e per metà intrisa di sangue. Aprì le labbra e con un filo di voce balbettò. «Vi chiedo perdono se vi ho spaventato. Mi chiamo Alnardo Bruschi e faccio il tipografo. Assieme a un mio compagno siamo stati fermati da due carabinieri che volevano portarci alla tenenza, senza uno straccio di motivo. Allora io e il mio compagno siamo scappati, ma uno di quei cani ci ha sparato addosso alle spalle. Ho cercato riparo e non so come sono finito qua dentro. In questi giorni cercano ogni inganno pur di arrestarci. Sapete che da quando c'è stato il grande congresso socialista qui a Genova... Ah, scusate, non vi ho detto che sono anarchico. E adesso denunziatemi pure». Era bianco come uno straccio e per la foga di quel racconto piegò il capo e socchiuse gli occhi. Il marchese non sapeva che pesci pigliare. In famiglia aveva sentito sempre parlare degli anarchici come di pericolosi malviventi. «Ma allora siete un ladro, un assassino!» Solo dopo averla pronunciata si accorse che era una domanda cretina. L'anarchico sorrise appena con una mezza bocca e fece no col capo senza dir parola, ma fu sufficiente perché il marchese si sentisse improvvisamente uno sciocco. Non sapeva assolutamente cosa fare, era in preda a una fortissima agitazione: salire su, svegliare la casa con chissà quale strepito e spavento per tutti, e poi che ne sarebbe stato di quel povero diavolo? Ma certo l'avrebbero arrestato come meritava, senza dubbio questi anarchici sono dei fuorilegge, altrimenti non si spiegherebbe perché i carabinieri gli stanno così addosso. Però quel tipo gli faceva pena, non solo per la ferita, ma anche perché aveva una bella faccia pulita e degli occhi intelligenti. Ma che ne poteva sapere lui? L'aveva mai visto un delinquente in vita sua? No. Chissà, forse un delinquente avrebbe potuto anche avere una faccia simile. Ma no, non era possibile, non pareva proprio. Però vai a sapere. Di certo il professor Lombroso non l'avrebbe incluso nella sua galleria di tipi delinquenziali che lui aveva scorso una volta su quell'illustrazione italiana, tutte facce patibolari che facevano ribrezzo solo a vedersi. Ma che? Stava commettendo una grandissima sciocchezza non chiamare gente. Poi d'istinto corse su, lasciando l'uomo in terra. Tornò dopo qualche minuto con una boccetta di acido fenico e delle bende. L'aveva visto fare al dottor De Sanctis quando medicò la ferita alla gamba di suo nipote Giacomo caduto da cavallo e lasciò lì la boccetta dicendo che sarebbe potuta servire, Dio ne scampasse il caso, per altre necessità simili. Cercò di sollevarlo, gli tolse la giacca, gli slacciò la camicia ormai in zuppa di sangue e scoprì la ferita che prese a tamponare col fazzoletto. Si accorse che il proiettile era passato oltre e aveva attraversato il muscolo del braccio. Meglio così. Sarebbe bastato fermare l'emorragia senza bisogno del chirurgo. Il marchese medicò l'uomo, lo ripulì meglio che poté e gli fece un bendaggio molto stretto. Poi prese una caraffa, lì accanto, e spillò un po' di vino da una botte. Glielo accostò alla bocca e pian piano l'uomo iniziò a bere. «Adesso io vi lascio qui. Voi cercate di dormire e aspettate che torni da voi domattina presto». Mi raccomando, se sentite scendere gente, nascondetevi qua dietro alla botte e non uscite per nessun motivo, altrimenti sarò capace di... Insomma, giuratemi su Dio che non prenderete alcuna iniziativa. Ve lo giuro sul mio onore, che vale molto di più, rispose l'anarchico con un filo di voce. Il marchese restò colpito da quella blasfema fierezza e se ne andò senza dir nulla. Di solito verso le 3 riusciva a prender sonno, ma quella volta passò la notte completamente in bianco. Già risalendo la scala della cantina si era accorto che quelle macchie di sangue sarebbero dovute sparire, se no l'indomani qualcuno le avrebbe di certo notate. E allora vai in cucina, dove ormai tutto era buio, cerca degli stracci e un secchio. Ma dove li tengono gli stracci, servi? Poi torna giù a pulire i gradini, sciacquando lo straccio in continuazione col terrore di essere scoperto. Fece sparire la camicia insanguinata dell'uomo, gettandola nel pozzetto delle fogne e portandogli una camicia pulita. Già, bravo sciocco, e le tracce di sangue sulle pietre del cortile? Sarebbe bastato un cameriere o un fornitore a notarle, avvertire in casa e sai che guai se avessero chiamato i carabinieri. Ma tu guarda in che pasticcio s'era cacciato per non aver voluto chiamare subito aiuto. C'era poco da fare ormai, si affacciò guardingo nel buio e iniziò a soffinare in terra come uno sguattero qualunque, dalla porta di cantina fino a quella d'uscita sulla strada, maledicendosi in silenzio e sperando che nessuno da casa si accorgesse di lui. Rientrò in cucina, facendo più piano che poteva, ripose il secchio e lavò gli stracci, via, finalmente in camera. No, fermo, quel disgraziato avrà avuto bisogno di cibo. Ma sì. Domattina al risveglio doveva pur mangiare qualcosa, aveva perduto sangue. Dov'è che i cuochi tengono il cibo? Accidenti! Si mise a rovistare al buio, dentro vari sportelli della cucina, finché il suo naso non riconobbe l'odore del pasticcio che avevano servito a cena. Pasticcio caldo di quaglie farcite alla spagnuola. Spennate, sventrate, abbrustiate, 10 belle quaglie ben nette. Tagliate le ali, la testa, le gambe, risossatele e empitele da... dungo e vu alla francese, mischiando un po' di tartufi bianchi o neri, qualche fungo tagliato e prezzemolo trito, giusto di sale, formate una crosta da pasticcio, decoratela, empietela empitela delle quaglie con farcia intorno, finitele, fatela cuocere in forno piuttosto caldo, cotta al punto di un bel colore, disgrassatela e versatele dentro un po' di salsa spagnola ridotta con un po' di sugo, un fungo e un po' di prezzemolo triti, il sugo di due limoni. Gli venne la nausea solo all'odore. Il manicaretto gli galleggiava ancora fra il cardias e il piloro, ma ne staccò un pezzo e li involtò nella stessa carta che copriva la teglia, poi giù in cantina. L'uomo dormiva e lui gli appoggiò il fagotto col cibo accanto alla brocca del vino. Rientrò nel suo appartamento, che saranno state le 4. Per fortuna sua moglie dormiva di sasso e non si accorse che era in condizioni pietose, stravolto, col fiato grosso, mezzo fradicio, con le maniche della vestaglia rimboccata, le mani rosse, gonfie di umido, le unghie stuccate con frammenti di quaglia. Sarebbe stato difficile convincerla che era stato in biblioteca a sfogliare manoscritti. Si mise a letto, sperando di dormire, ma i pensieri gli turbinavano in testa veloci come battiti del cuore. Che avrebbe fatto il giorno dopo con quell'uomo? Denunziarlo ai carabinieri sarebbe stata la cosa più giusta, se non voleva rendersi correo di qualche delitto. Ma come si faceva a tradirlo ora che gli aveva dato soccorso e fiducia? Nasconderlo ancora in casa, ma per quanto? Già domattina qualcuno avrebbe potuto scoprirlo, e poi vai a sapere se quella era una testa calda e se avesse fatto qualche follia. Che onta, che disonore e che spavento se fosse venuto a saperlo suo padre, il marchese Giuseppe Maria. Già quello era ridotto al lumicino dalla malattia, di sicuro sarebbe morto per lo spavento, e suo fratello Flavio gli avrebbe potuto dare dell'irresponsabile di fronte a suo padre e avrebbe finalmente avuto buon gioco nel prendersi il più possibile dalla spartizione dell'eredità. No, via, il fuggiasco andava sloggiato al più presto, senza che nessuno se ne accorgesse. Ormai era mattina, di giorno neanche a parlarne, la notte seguente. Quello sarebbe stato il momento buono. Come state stamane, marchese caro? Mi sembrate di buona cera? Ma che, sempre peggio, respiro sempre peggio. Fidate in Dio onnipotente, se questo può consolarvi, sappiate che anche là fuori le cose vanno sempre peggio. Avete saputo della sparatoria di questa notte? No, ditemi. Sono tempi bui, tempi terribili questi, marchese mio. Non passa giorno senza che se ne senta dire una. Sapete cosa hanno fatto questi cari anarchici proprio qui, a 2 passi dal vostro palazzo? Mio Dio, ebbene, questi campioni della libertà hanno esploso dei colpi di rivoltella contro i regi carabinieri e bisogna ringraziare la Santissima Vergine se non li hanno colpiti. Cani, ma li avranno arrestati, spero. Questo non ve lo so dire, leggeremo più tardi la gazzetta per saperlo. Ma il problema, marchese caro, è che vi è troppo lassismo. La morale è ormai calpestata da queste orde di socialisti e democratici che stanno distruggendo ogni rispetto per l'autorità e la religione. Ecco il dramma. Ma la colpa è anche del governo, caro padre, lasciatemelo dire. Se invece di autorizzare qui a Genova quello sceno congresso dei socialisti, li avessero fatti caricare dai carabinieri a cavallo, non saremmo qui ad aver paura anche a uscire di casa. Ah, ma se Dio vuole, io ormai muoio. Quel che ho fatto, ho fatto. Mi preoccupa soltanto il futuro del mio Marcello e del mio Flavio. Loro sì che si troveranno a tribolare in un'Italia ormai moralmente depravata. Dite bene, Marchese, pensate alla discendenza. A proposito, l'avete chiusa la questione del vostro legato, come s'era detto? In verità, padre Fernando, stavo per farlo quando Marcello mi ha scongiurato di non dividere la biblioteca. Sapete quanto quel figliolo sia appassionato di libri, tutto all'opposto di Flavio, che bada molto di più alla vita attiva. Oh bella, e dunque? Dice Marcello che la biblioteca non si può assolutamente dividere in due parti e se lo si dovesse fare bisognerebbe fare una grandissima attenzione a classificare i libri e i manoscritti stando attenti a non separare certi autori. Insomma, non ci ho capito molto, fatevelo spiegare meglio da lui. E no, Marchese caro, siete o non siete voi il pater familias? Non avevamo già detto che la biblioteca va divisa salomonicamente fra Marcello e Flavio? Se qui ci mettiamo a esaminare libro per libro siamo freschi, fra 5 anni siamo ancora qua a discutere. No, via, nulla, nulla, è un'idea che non va, non se ne fa di nulla, via. Ho provato anch'io a dirglielo, padre, ma lui è vostro figlio, perbacco, e voi avete autorità su di lui. Dite bene. Voglio mandarlo a chiamare subito, così gli parlerete voi. Anzi, se fosse in casa anche Flavio, non sarebbe male chiamare anch'egli. Scosse il campanello d'argento e chiese al servo di far venire lì i due signorini. Dopo pochi minuti comparvero uno dopo l'altro, ignorandosi. Flavio era pronto per uscire ed era azzimato come un figurino di moda. Camicia col solino inamidato, cinto da ampio fiocco di raso nero, giacca aderente in velluto nero con risvolti verde salvia, soprabito di panno grigio perla con collo e maniche di marmotta, pantaloni attillati di taffetà a righe verde, salvia sempre su campo nero, scarpe a punta lucidissime di bacchetta nera, bastone di canna con pomo d'argento sbalzato a forma di anitra e guanti grigio chiaro e nappa d'agnello. Tutto questo apparato distoglieva ogni attenzione dal volto che rimaneva nel limbo di quelli che non si ricordano. Ovale, un po' bolso, senza barba né baffi, il naso fine, leggermente curvo, gli occhi ceruleo annacquato con la palpebra lievemente a mezz'asta. Marcello invece era vestito da casa, con la vestaglia corta e le pantofole, somigliava al fratello quanto Vittorio Emanuele II agli altri Savoia. Viso squadrato e mascella forte, occhi vivaci incorniciati da sopracciglia marcate, baffi neri e labbra ben delineate. Nessuno aveva mai osato dirlo, ma molti lo credevano frutto di un adulterio. Baciarono entrambi la mano dal padre confessore. Marcello chinò il capo in segno di saluto verso il genitore, mentre Flavio lo salutò con un cenno della mano. «Papà, spero sia cosa breve, sono atteso a colazione dai Balbi», esordì Flavio. «Stai tranquillo, caro, faremo presto». «Cari figli, io sto sempre peggio, lo sapete, e il medico, per quanto si sforzi di ingannarmi, mi fa capire che sono vicino al termine dei miei giorni. D'altra parte ne avevo chiari segnali anche quando tutto sembrava essere in ordine. Figuriamoci ora che sono uno scheletro rivestito di pelle». Marcello guardava in terra e serrava le mascelle ritmicamente. Flavio finse di cercarsi il fazzoletto in tasca e diede un'occhiata all'orologio. «Dunque ho ormai poco tempo per chiudere il mio testamento in vostro favore. Di molte cose abbiamo già parlato, ma resta aperta la questione della biblioteca che Mar...» Flavio lo interruppe, parlava molto rapidamente con voce di contralto. «Non resta affatto aperta, caro papà, scusatemi. Più volte abbiamo detto che non sappiamo quanto possa valere nel complesso e quindi è bene dividerla in due parti esattamente uguali, così come ha saggiamente consigliato padre Ferdinando, che fu interrotto a sua volta da Marcello, che aveva un vocione da baritono. Se in questa biblioteca tu avessi mai messo soltanto il naso in 40 anni di vita, caro fratello, adesso non parleresti così. I libri e i manoscritti non sono buoi o cavalli che si dividono a dozzine. Là dentro ci sono tutti i manoscritti autografi di Vivaldi, di Stradella e poi opere di Mozart, Gluck e decine di altri grandi compositori. Per dividere in due questa collezione ci vuole uno studio attento e meticoloso. E comunque meglio sarebbe non dividere affatto ciò che i nostri avi ci hanno tramandato integro. Preferisco, pur di non vederla scempiata, di rinunziare ad altri beni più costosi. Lasciate a me la biblioteca, padre carissimo, e date pure a Flavio la quadreria, i mobili, quel che volete. Eh no? No, mio caro fratello, tu sarai anche il maggiore, quello colto, ma a me non mi giochi tanto facilmente. Se sei così attaccato a quelle carte, è segno che sotto c'è qualcosa di importante. Niente da fare, voglio la metà della biblioteca che mi spetta. E se ti sembra tanto complicato dividere in due una massa di libri, ti insegno io il sistema. A me i volumi pari e a te quelli dispari. Ma sei diventato matto? Ma è una scelta insensata! No, Flavio, tu sei sempre stato attaccato a... L'interruppe il padre confessore perché stavano ormai alzando troppo la voce. Pace, pace, figlioli diletti. Vedete, Marcello caro, vostro padre è ormai debole e stanco. Non aggraviamolo con ulteriori problemi. Dividere i beni di famiglia in due parti, fra due fratelli. È la cosa più semplice e onesta del mondo. Di che mai vi lamentate? Lasciamo che il marchese Giuseppe Maria chiuda in tranquillità il suo legato, che poi dovrà dedicarsi alla preghiera e alla cura della sua anima. Vero, marchese? Concluse il gesuita con voce agnellata. Dite bene, padre Ferdinando, fece il vecchio con un filo di voce. Marcello, io ti comprendo e so quanto tu sia sinceramente appassionato a quelle carte, ma convieni finalmente che adesso non c'è più tempo per fare indagini e di esaminare tutto. Accetta dunque la spartizione con animo lieto. In fondo è questa la mia volontà. Marcello chinò lo sguardo davanti a suo padre, mentre Flavio e il padre confessore si guardavano soddisfatti. Se dunque non c'è altro, io, padre carissimo, vi saluterei. Non vorrei fare aspettare troppo i miei ospiti. Baciò rapido la mano di suo padre, poi quella del confessore, ignorò completamente suo fratello e uscì con scioltezza, lasciando nella stanza una scia di lavanda. Anche Marcello, avvilito, stizzito, umiliato e stanco, stava per congedarsi da suo padre quando un servitore bussò con più insistenza del normale ed entrò affannato per annunciare che il tenente Robetti dei Regi Carabinieri era là sotto con il suo attendente a chiedere di essere ricevuto. Marcello si sentì avvampare, il cuore gli balzò in gola e lo stomaco gli diventò un foglio di carta appallottolata. L'avevano scovato. Ecco, il disastro. Carabinieri. Carabinieri in questa casa onorata, si sgomentò il vecchio. Era proprio quello che Marcello aveva temuto. Lo tranquillizzò il confessore. Non preoccupatevi, marchese caro, saranno facendo indagini su quei delinquenti di stanotte e quindi vorranno raccogliere informazioni. Accidenti, lo sapevano già tutti, anche il confessore. Io non ho nulla da dirgli e non voglio che la mia casa abbia niente a che fare con questa faccenda disgustosa, ruggì il vecchio con le ultime forze che gli restavano in corpo. Ma certo, marchese mio, state tranquillo. Ci pensò il confessore a dirigere i lavori, come ormai avveniva da quando Giuseppe Maria si era ammalato. Marcello, andate voi da quegli ufficiali, dite loro che il marchese vostro padre è indisposto e non può riceverli. Sentite cosa vogliono, ma fategli chiaro che la nobile casa dei Durazzo non vuole aver nulla a che fare con queste storie. Marcello inghiottì un litro di saliva. Avrebbe dato volentieri uno schiaffo a quel parassita che da anni dominava la sua casa, ma fece appena sì col capo e scese giù di corsa con gli occhi che non riuscivano a mettere a fuoco nulla per l'agitazione. L'avevano già trovato, avrebbe dovuto mentire o ammettere tutto. Era meglio tenere un contegno indifferente o fingersi adirato come suo padre. Le scale e il corridoio che lo separavano dalla sala degli ospiti non bastarono a fargli elaborare un qualsiasi straccio di strategia e si ritrovò davanti come all'improvviso. Seppe solo dargli il buongiorno, balbettare un qualche accomodatevi, poi per fortuna prese la parola il tenente. Eccellenza illustrissima, vi chiedo perdono se abbiamo turbato la quiete della vostra casa con questa visita non preannunziata, ma ci corre l'obbligo di avvisarvi che questa notte, a seguito di uno scontro a fuoco con due nostri appuntati, un delinquente fuggiasco e ferito è stato avvistato per l'ultima volta nei pressi del vostro palazzo. Sia per assicurare il criminale alla giustizia, sia per proteggere la vostra famiglia da ogni eventuale contatto con il reo, vi chiediamo se per caso voi o qualcuno di casa abbia visto o sentito nulla di strano questa notte. Vai a sapere perché, ma d'improvviso il copione gli si presentò subito chiaro nella mente. «Ora capisco tutto», fece Marcello sgranando gli occhi e portandosi il palmo della mano alla fronte. «Che cosa, marchese? Dite!» fece l'ufficiale impaziente. «Vedete, tenente, io soffro di insonnia e passo le mie nottate nella biblioteca di famiglia a leggere e scrivere. Dalla finestra della biblioteca vedo il cortile che sul lato opposto al mio ha un'uscita sul vicolo laterale. Questa notte saranno state le 1 passate da poco. Ho sentito degli strepiti venire proprio da quella parte». Ma escludo che qualcuno possa essere entrato nel cortile, l'avrei notato certamente, e si accorse di aver pronunciato quell'avverbio con eccessiva baldanza. Nel dubbio della vostra avvedutezza, non dubito della vostra avvedutezza, eccellenza, vi devo però avvertire che abbiamo rilevato delle tracce di sangue lungo il vicolo qua dietro, e le tracce si fermano proprio davanti alla porta di servizio del vostro palazzo. Marcello finse di stupirsi. Era tranquillo di aver ripulito per bene il lastrico nel cortile in quella nottata d'inferno e accettò la sfida. «In questo caso, tenente, non possiamo correre il rischio che un delinquente si sia insinuato nel nostro palazzo. Scendiamo in cortile a verificare se le macchie di sangue proseguono all'interno». In capo a 2 minuti, i due ufficiali avevano smosso la curiosità della casa e in cortile si trovarono attorniati dal marchese, dal padre confessore che non ce l'aveva fatta a restare su col vecchio, due camerieri e lo stalliere. Si vedevano parlottare, indicare quella porta, tracciare una direzione con la mano, tenere il naso puntato verso il lastrico. In effetti, nel cortile non si vedevano tracce di sangue e Marcello si era fatto ormai tranquillo, tanto che spiegava ai carabinieri che il suo occhio non poteva averlo ingannato e che le ricerche si sarebbero dovute indirizzare dalla strada verso la discesa che va verso Piazza della Maddalena. I due militari parevano ormai esserne convinti, quando l'appuntato, scostatosi dal gruppo per osservare di nuovo lo spazio vicino al portoncino d'ingresso, notò qualcosa. «Tenente, venite qua!» L'ufficiale si staccò dal gruppo e raggiunse il sottoposto. Marcello sbiancò. Avevano trovato 2 macchie di sangue dentro al cortile, subito dopo la porta. Deficiente e imbranato che non era altro. Ma del resto lui era un marchese, non aveva mai preso in mano un secchio o uno strofinaccio in vita sua. Dunque, l'uomo aveva varcato la porta del palazzo, questo era certo. Ma perché poi le tracce si interrompevano? Bisognava comunque mettersi a cercarlo all'interno, su questo non c'erano dubbi. Mentre i due militari discutevano a voce bassa, il prete origliava e i servi facevano facce spaurite. Marcello sentiva un forte calore salirgli lungo il collo e il cuore battergli nuovamente come un tamburo. Era mattina, il ferito era ancora in cantina, vai a sapere in che condizioni, e di lì a poco i carabinieri avrebbero messo il naso dappertutto. Non c'era più tempo da perdere. Mi vorranno perdonare se salgo un momento in casa a avvertire i miei familiari di questo contrattempo. Intanto voi procedete tranquillamente nelle vostre indagini, fece Marcello ai militari che assentirono distrattamente, presi come erano dal caso. Lui si infilò a passo svelto nella cucina, di lì nella cantina dove si mangiò le scale in un istante. Sono io, presto, uscite fuori. L'uomo attese qualche momento per essere sicuro che fosse davvero lui e apparì circospetto da dietro una botte. Il riposo e il cibo lo avevano già in parte ristabilito e ora poteva stare in piedi senza difficoltà. Il marchese gli spiegò a bassa voce che i carabinieri lo stavano cercando lì fuori nel cortile e che l'unica speranza di salvezza sarebbe stato seguirlo senza fiatare. L'uomo non fece storie e si incamminò dietro al marchese, nel buio più completo, verso una porticina che si trovava sul fondo della cantina. Da lì percorsero una stretta scala a chiocciola che li portò nelle rimesse dei cavalli. Poi un'altra porticina, corridoio interminabile e ancora una scala, varie stanze di magazzino, e finalmente uscirono in un corridoio luminoso e ben arredato, dove c'era una serva che spazzava in terra. Il marchese fece cenno all'uomo di restare nascosto dietro la porta, mentre lui uscì con decisione, chiedendo alla serva di andare giù in cortile a vedere se quei militi avessero bisogno di qualcosa. Appena la serva scomparve giù per le scale, Marcello prese l'uomo per il braccio e gli fece percorrere a corsa tutto il corridoio. Aprì finalmente la porta della biblioteca e appena furono dentro, se la richiuse alle spalle con due mandate. Ora erano al sicuro. Nessuno metteva mai il naso in biblioteca, tranne lui. Si videro per la prima volta in faccia alla luce del giorno. L'anarchico, frastornato da quella corsa e ancora debole, non capiva in quale luogo si trovasse. Si guardò intorno stupito e poi gli chiese: Ma voi chi siete, signore? Sono il marchese Marcello Durazzo. Ma non mi pare questo il momento delle cerimonie, non credete? L'uomo stranì. Fino a quel momento non aveva avuto nessuna idea di dove si trovasse e chi fosse quel tipo che l'aveva medicato. Adesso restate qua dentro e se sentite arrivare qualcuno nascondetevi dietro alle tende. Anche questa volta fidatevi di me e non prendete iniziativa. Volete che ve lo giuri oppure anche voi vi fidate? Si guardarono negli occhi e si fecero simpatia. Ma l'ansia d'avere quei militari per la casa non gli dava pace. Salutò l'anarchico con gli occhi e uscì dalla biblioteca guardandosi attorno nervosamente. Scese e raggiunse di corsa il cortile sperando che non avessero trovato nulla di compromettente. Perdonate, signori cari, ma le cure familiari. Perdonate voi, signor Marchese, se vi abbiamo dato un incomodo così grande. Con i miei sottoposti stiamo ispezionando i locali adiacenti al cortile, quelli insomma in cui il fuggiasco potrebbe aver trovato asilo, ma finora non abbiamo trovato. Il tenente fu interrotto da un grido proveniente dalla cantina. Senza dir nient'altro, corse verso la porta, seguito dal marchese. Ne uscì fuori l'appuntato, ansimante. Ho trovato altre macchie di sangue, signore, giù, giù! Tutti lo seguirono a precipizio giù per le scale. Marcello capì di essere ormai perduto. Cretino e superficiale che non sei altro. Ti sta bene. Hai voluto far tutto da solo. Ma chi pensavi di essere, buono a nulla, se non sei nemmeno capace di sciacquare un pavimento? Ora pagherai, cara, la tua spavalderia. Quanto sarebbe stato meglio chiamare i servi quella sera maledetta. Ora che hanno trovato il sangue, perquisiranno tutto il casamento e allora addio. Povero padre mio, questo è il colpo di grazia. Ecco, tenente, guardate qua, è sangue per certo. Cretino e superficiale che non sei altro, gridò il tenente dall'appuntato. Ma non vedi che qua dentro è pieno di bestie selvatiche appese a sgocciolare? È evidente che ci siano macchie di sangue per terra con questo viavai di fagiani e lepri. Appuntato lo coco, voi da domani passerete 3 giorni di consegna per procurato allarme e deficienza congenita. Risalirono alla luce nel cortile con Marcello che era inebetito come un miracolato. Il tenente si scusò dell'inconveniente e del tempo che gli avevano fatto perdere. Nulla da temere, la sua famiglia poteva stare tranquilla, probabilmente quell'uomo pericoloso era riuscito a entrare per pochi istanti dalla porta del cortile, ma poi, non sentendosi al sicuro, doveva aver risolto di scappare altrove. Siamo sufficientemente certi che la vostra famiglia non ha corso né correrà alcun pericolo, eccellenza. Questo è ciò che maggiormente speravo di sentirvi dire, caro tenente. Adesso posso finalmente avvertire i miei cari di stare tranquilli, fece Marcello con la faccia di stagno. Si congedarono cordialmente, gli ufficiali fecero il saluto militare, accennarono un inchino del capo e se ne andarono. La brigata dei curiosi si sciolse e Marcello, a cui il sollievo aveva per incanto restituito diverse ore di sonno perduto, poté tornare su in biblioteca. Guardò con attenzione che nel corridoio non vi fosse nessuno e riaprì la porta con la chiave che si era portato con sé. L'anarchico ebbe un soprassalto e cercò di allontanarsi di scatto dal tavolo ove si trovava seduto a sfogliare manoscritti, schizzando verso la tenda a nascondersi. Il marchese richiuse la porta alle sue spalle con due mandate e si infuriò. Gli urlò sottovoce che era un incosciente, che se fosse entrata altra gente sarebbe stato un disastro per tutti, che aveva sbagliato a fidarsi di lui, che aveva poco da fare lo spavaldo con i suoi giuramenti laici e che avrebbe dovuto ringraziare Dio perché altrimenti. Avete ragione, vi chiedo scusa, sono stato un incosciente, sussurrò. Non volevo mettere a repentaglio la vostra casa e anzi vi sono grato per avermi salvato la vita per tutto quello che state facendo. Ah, detto per inciso, quel mangiare che mi avete lasciato è la cosa più buona che io abbia mai assaggiato. Però dovete capire che chiudere un appassionato di libri in mezzo a queste meraviglie e chiedergli di non guardarne neanche uno è come mettere un topo nel formaggio e proibirgli di mangiare. Dunque voi amate alla follia e invidio la vostra fortuna di poter disporre di un patrimonio così splendido. Ho studiato belle lettere e filologia all'università. Poi mio padre morì e dovette mettermi a lavorare per campare la famiglia. Ho la fortuna di fare il tipografo e di vivere in mezzo ai letterati, ma ho una così bella biblioteca. Guardatela ora, guardatela intera, perché fra pochi giorni sarà divisa in due. Così ha deciso mio padre per venire incontro alla grettezza di mio fratello che vuole la sua parte di eredità. Non fatelo, guardate, forse vi dico un'ovvietà, ma proprio questa raccolta di musiche che stavo sfogliando inizia con un compositore incompleta, con una composizione incompleta, il cui principio si trova esattamente alla fine del volume precedente. Quando il mio professore di paleografia ci spiegava la formazione del codice. Dunque, voi sapete leggere queste composizioni? Beh, questo non certo grazie al mio professore di paleografia, bensì al mio maestro d'organo che mi vergava le dita ogni volta che sbagliavo una nota. Era un prete, Don Gaudenzio, ed è grazie a lui se so improvvisare un preludio su un cantus firmus e se odio il clero. Mi piacerebbe tanto sapere come fa la musica scritta su queste pagine. Pensate che ci sono migliaia di composizioni qua dentro, ma per me sono tutte mute. Oh, per quello è semplice. Apriamo qui a caso. Cos'è questo? Ecco, concerto per flautino del Vivaldi. Non so chi sia questo Vivaldi, ma sembra bello. Sentite come fa. e prese a fischiarne la melodia con sicurezza e intonazione perfetta. Era un motivo piacevolissimo, brillante e orecchiabile. Marcello restò stupefatto. Gli sembrava un miracolo che quello sapesse leggere così bene quei segni che lui aveva visto tante volte senza capirci nulla. Per lui fu una rivelazione. Chissà quanta bella musica c'era là dentro, ma dovette quasi subito mettergli la mano sulla bocca, altrimenti quell'usignolo avrebbe attirato fin lì tutto il casamento. Confuso e conquistato da quell'uomo, gli chiese: «Ma allora, se siete tanto sensibile e colto, perché mai siete un anarchico?» Si accorse subito di aver rifatto una domanda stupida. Per di più, pronunciare la parola anarchico in quella sala austera gli risuonò come una bestemmia. «Marchese mio, gli anarchici sono persone come tutte le altre. Ci sono i professori, ci sono gli operai, ci sono gli intelligenti e ci sono gli stupidi. L'unica cosa che hanno in comune è l'amore per la libertà. Vedete, voi possiedete tutto questo tesoro di sapienza. Ci sono migliaia di altre persone che non lo possiedono e non saprebbero che farsene. Poi ci sono altre ancora che non lo possiedono e lo desiderano con l'assetato brama l'acqua. Però non possono averlo. Ecco, la libertà è mettere tutti, fin dal principio, in condizione di godere degli stessi beni». «Belle parole, sì, ma non so se poi...» «Ma via, ma che stiamo facendo? Non è questo il momento di fare dibattiti politici», troncò il marchese. «Voi resterete qui ancora oggi, poi stanotte, verso le 3, verrò a rilevarvi e vi condurrò fuori. Non mi fate angosciare, d'accordo?» «D'accordo, Marcello», e lo abbracciò. Il marchese rimase 2 volte di stucco, per quel Marcello e per l'abbraccio. Un nobile non abbraccia mai nessuno, porge solo la mano, ma strinse anche lui l'uomo contro di sé e pensò che gli sarebbe piaciuto avere un amico così. Mesi dopo era successo quel che doveva succedere. Il marchese Giuseppe Maria IV di Durazzo era andato a raggiungere i cori angelici. I beni di famiglia erano stati equamente divisi fra i 2 diretti discendenti, se si eccettua una larga fetta lasciata in dono al padre confessore per i suoi inestimabili servigi. Marcello aveva ormai rotto col resto della famiglia e aveva deciso di andarsene per sempre da Genova. Il guardaroba, i mobili, la mezza biblioteca e ogni sorta di masserizia avevano già preso la via del Monferrato, dove la moglie Francesca possedeva un delizioso castello di famiglia a Occimiano. Restavano solo gli ultimi bauli di effetti personali e, poiché non aveva figli, loro stessi. Era felice di partire, non provava nessuna nostalgia né rimpianto. Scese giù infagottato in un cappottone da viaggio e trovò tutta la servitù schierata intorno alla carrozza per salutarlo. Mentre venivano caricate le ultime borse e mentre lui stringeva le ultime mani, il segretario uscì in cortile portandogli un pacchetto che era appena arrivato. Non c'era scritto il mittente, ma solo il destinatario. Lo aprì subito. Era un libriccino di non molte pagine, con la copertina di carta. Arnaldo Bruschi, Teoria e pratica della libertà, Genova, tipografia Bruschi, 1893. Lo sfogliò. C'era una dedica sulla pagina bianca: «A Marcello, che mi ha rimesso in libertà». Sorrise, lo richiuse e se lo infilò in tasca. Aiutò Francesca a salire sulla carrozza, poi salì anche lui e partirono. Mentre la vettura si affacciava sulla strada per far manovra, il cavalier Ricci, che passava di lì, gli batté le nocche sul finestrino. «Dove andiamo di bello, signor marchese?» «A fare il bibliotecario dimezzato», fece lui, salutando.